E poi passiamo al Fatto Quotidiano, il giornale che in redazione, quando preparano l'edizione quotidiana, cantano "A noi della Libia non ce ne frega niente", così. Eppure Berlusconi vaffanculo, perché noi... l'anima è Berlusconi delinquente. Berlusconi delinquente, no? E saluti quanti la Libia, ma che ci frega della Libia, lo c'avevo Berlusconi. Sono formissima storia. Eh sì, cantano questo, perché in effetti sulla Libia c'è giusto un boxino, perché ovviamente si parla del governo di Gomorra. La nomina a ministro Di Romano, inquisito per mafia, è solo l'ultimo atto dalla Lombardia alla Sicilia. Il centrodestra è inquinato da personaggi vicini ai boss. Le parole del pentito Campanella e le intercettazioni raccontano di come Cosa Nostra nelle elezioni del 2001 puntasse sull'esponente voluto dal premier. Io su questo c'è veramente molto poco da dire. Io credo che uno poteva pensare all'innocenza del signor Saverio Romano prima che fosse nominato ministro. Dal momento in cui è stato così nominato ministro, qualcosa in più salta. Però questo è il Fatto, che poi presenta taglio centrale: Rubi non deve parlare, la ragazza controllata a vista nei verbali della procura, la rete preparata dagli avvocati. Dunque si continua a parlare sempre di Berlusconi. Si continua a parlare di Berlusconi attraverso un altro box, che è quello lì, in un libro bianco, tutte le censure di Minzolini. E poi accanto, finalmente, Guerra in Libia, nato al comando, nuovi raid, ma Gheddafi non molla un po', così. Ma pensavo, visto che tutti esultano per il comando NATO, ma quindi da martedì, quando entrerà in vigore il... Gli tirano i fiori, esatto. Gli tirano fiori... Flower power, così, aerei di pieni di fricchettoi. E chiudiamo, io invece chiudo che segnalo questo libro che si spinge in prima pagina, è il Fatto, scritto da Leonardo Cohen, che forse è quello che scrive su Repubblica, un tale quello lì, no? Mi sembra di sì. Beh, o è quello che ha scritto su Sam, sì, è quello di Repubblica. Leonardo Cohen e Paolo Colonnello, senti qua, Sodoma, le 120 giornate che hanno distrutto Berlusconi. Distrutto, no, mi pare sì, che ancora sì, bello saldo, no. Bello saldo al comando. Vabbè, con questo abbiamo chiuso le prime pagine. Che vuoi ascoltare qualcosa di bello? Guarda, di piacevole? Posso dire una cosa? Sono certo. Un po' deluso, perché settimana scorsa, che sono tornato dopo mesi, un paio di volte l'ho sentito squillare questo 06491715. Ha squillato? Ah, però, però è vero, e non potete deludere chi arriva, capito, a tastoni, arriva fino alla radio la mattina presto. Dunque, chi non fa squillare lo 06 49 17 50 è Scilipoti. Sta squillando questa cosa, guarda, che ti dà quasi un delirio, sì. Onnipotenza. Sono i responsabili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Io già ho il delirio, mettici pure l'onnipotenza. 1993. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques, ça reflète à la lumière et sans elle du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi, le poids des mots et le choc des faits. And all the human population. E poi passiamo al Fatto Quotidiano, il giornale che in redazione, quando preparano l'edizione quotidiana, cantano "A noi della Libia non ce ne frega niente", così. Eppure Berlusconi vaffanculo, perché noi... l'anima è Berlusconi delinquente. Berlusconi delinquente, no? E saluti quanti la Libia, ma che ce frega della Libia, lo c'avevo Berlusconi. Sono formissima storia. Eh sì, cantano questo, perché in effetti sulla Libia c'è giusto un boxino, perché ovviamente si parla del governo di Gomorra. La nomina a ministro Di Romano, inquisito per mafia, è solo l'ultimo atto dalla Lombardia alla Sicilia. Il centrodestra è inquinato da personaggi vicini ai boss. Le parole del pentito Campanella e le intercettazioni raccontano di come Cosa Nostra nelle elezioni del 2001 puntasse sull'esponente voluto dal premier. Io